America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Luciano Pavarotti, un mito italiano in America. Beh, devo dire un mito inesauribile, indistruttibile. Poi nel contesto dell'anno culturale ci saranno anche delle manifestazioni dedicate alla musica classica e anche alla rievocazione un po' di questa straordinaria figura di Pavarotti, che era l'italiano più conosciuto in America. Pavarotti era di Modena. E allora perché vi parlo di Pavarotti, di Modena? Perché in realtà c'è un altro italiano che si sta affermando abbastanza bene qua in America, sempre nel contesto dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, perché cultura per l'America e anche gastronomia, un retroterra straordinario, non soltanto così, di cibo, di cucinare, di idee, di creatività, ma proprio un retroterra straordinario di cultura, di usi, di tradizione, di colori, di umori e così via, così via. Allora, con me ai microfoni di America 24, Massimo Bottura. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, Massimo Bottura ha avuto per 3 anni consecutivi 3 stelle Michelin per il suo ristorante, che è l'Osteria Francescana a Modena, ed è considerato generalmente tra i primi 5 cuochi del mondo, ed è comunque considerato il miglior cuoco italiano, il miglior ristorante italiano e così via. È vero Massimo o no? Ma è vero, premi sono premi, lasciano il tempo che trovano. Certo, è molto importante per attirare gente in Italia, a Modena, dove non c'è un vero e proprio turismo. E quindi questo sviluppo del turismo gastronomico è qualcosa di molto molto importante. E riuscire a viaggiare, a essere rispettato, conosciuto, fa sì che poi i grandi gourmet che viaggiano tantissimo vengano in Italia per venire ad assaggiare appunto questa nuova cucina italiana, che esprime una territorialità molto profonda, e quindi hai delle sensazioni di quello che è il territorio italiano, che è un giacimento straordinario a 360 gradi. Ecco, e dunque Massimo è qui per cucinare, è stato a New York, poi a Washington, poi a Los Angeles, quindi un tour un po' in tutti gli Stati Uniti con dei piatti, devo dire, io ho avuto la possibilità di assaggiarli nel contesto di queste manifestazioni culturali dell'Italia negli Stati Uniti, davvero straordinario. Ma prendiamole uno, descriviamo cosa c'è, perché e qual è la forza di Massimo? Che non è soltanto un piatto, ma è quello che c'è dietro il piatto, appunto le sensazioni. Allora cerchiamo di aggiungere queste sensazioni che si cercano di dare agli americani descrivendo un piatto. Vieni in Italia con noi è praticamente un viaggio del palato attraverso i grandissimi giacimenti gastronomici italiani, partendo con Sicilia e Pantelleria attraverso questa granita. Quindi si chiude gli occhi, si assaggia la granita, si immagina di essere in Sicilia durante il mese di agosto a 40 gradi, quando mastichi e assaggi, il palato assaggia queste mandorle di noto, questa sensazione di caffè, però con questo passaggio tra l'entroterra e l'isola di Pantelleria, con la brezza che spazza il mare e lascia queste sensazioni salate. Quindi abbiamo rotto il confine tra il dolce e il salato, e insieme a questa granita abbiamo servito del bergamotto candito, abbiamo inserito dei capperi dolci e salati, dell'origano selvatico, sale e vaniglia, e un pochettino di polvere di bergamotto per dare questa profondità al palato. E questo era soltanto lo stuzzichino di benvenuto della granita. Della granita. Sì, ecco, vi lascio immaginare il resto. Però Massimo ha avuto anche un'importante storia americana, perché se non sbaglio tu a un certo punto sei approdato in America, hai preso un biglietto di sola andata a un certo momento, no, è vero c'è o no? C'è stato un momento nel quale io stavo lavorando all'Hotel de Paris con Monsieur Ducasse, era il 93, e Sylvain Portier, il cuoco di Le Cirque, cercava dei ragazzi per rafforzare la brigata. E allora, d'accordo con Ducasse, in 3 siamo partiti e siamo venuti a New York. L'esperienza non fu straordinaria, perché troppi coperti, una cucina tiratissima. Venendo dall'esperienza dell'Hotel de Paris, era una cosa un po' diversa. E allora ho cominciato a vagare per gli Stati Uniti, perché mi piaceva questa idea della libertà, questo senso della libertà. Io amavo On the Road di Kerouac. E quindi cosa ho fatto? Un giorno mi sono ritrovato però a voler bere un grande espresso. Ero giù a So che camminavo, ho visto l'insegna di una grande marca di caffè italiano. Allora non era il tempo degli espressi, non era molto difficile bere un grande espresso a New York. E quindi sono entrato. Ho visto che c'era dei problemi, perché per bere un espresso ci ho messo 20 minuti, e così ho lasciato il mio numero di telefono e ho detto: se avete bisogno, chiamatemi. Non ho fatto in tempo ad arrivare a casa che nella segreteria telefonica ho trovato il messaggio: se vuoi, puoi venire domani. Alle 2 di pomeriggio ti aspettiamo. Io alle 2 sono arrivato là. E nello stesso giorno, è lo stesso shift, cioè 2 chiusura, anche mia moglie, quella che adesso è mia moglie, ha cominciato a lavorare lo stesso giorno, l'8 di aprile del 93. E quindi vi siete conosciuti? E quindi siamo conosciuti lì e dopo siamo rimasti insieme. Beh, quindi insomma è una storia straordinaria, cioè l'America ti ha fatto incontrare l'amore. È una storia incredibile, sì. E poi insieme siete rientrati in Italia. E dopo io sono rientrato prima io e lei dopo è rientrata dopo, è venuta a trovarmi dopo 5-6 mesi. E il resto, come si dice, è storia. Il resto è storia. Massimo, scusa, avevo chiesto di chiamare una persona, vediamo se è in linea. Pronto? Sì, pronto? Pronto, eccomi qua. Chi è? Davide? Sono il gastronauta. Davide Paolini, il gastronauta. Allora, Davide è con noi in linea dall'Italia. Davide, buongiorno. Dunque, intanto una notizia, perché abbiamo fatto una lunga chiacchierata di alta gastronomia qui con Massimo e abbiamo deciso che tu dovrai venire con noi la prossima volta che ci troviamo a New York da andare da un McDonald's. Quindi... Ma manco per idea, tu mi vuoi rovinare la reputazione? No, compensa la mia, Davide. No, ma, no, ecco, no. Allora, scusa, mi sto, Davide, però ho capito qua che c'è qualcuno che ti sta rubando il mestiere e quello non sono io, ma è Massimo Bottura. Perché? Che ci ha fatto delle descrizioni elegiache di quello che si accompagna al cibo, insomma è un poeta. Ma lui sogna sempre di cucinare. Lui cucina 24 ore su 24 di continuo, di notte, di giorno, mentre passeggia, sempre, lui cucina sempre. E quindi è da lì che poi riesce a tradurre questo per diventare il miglior cuoco italiano. Questa è la storia. Lo confermi intanto tu? Ma io spero, sei un critico severo, che... quindi voglio che ci sia, diciamo, il tuo timbro di approvazione, perché no, ho detto 3 stelle Michelin, 5 cuochi. Il primo dei famosi graduatori dei 50 mondiali che si tiene ogni anno a Londra. Io spero quello, italiano e di San Marino. Lo è già. Grazie Davide. Senti Davide, vorremmo approfittare di te per capire un momento cos'è questa cultura gastronomica italiana e che impatto ha negli Stati Uniti, perché c'è l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti e dunque ne abbiamo parlato con Massimo. Vorremmo ascoltare, avere anche la tua sensazione. Secondo te gli americani come reagiscono quando trovano uno come Massimo che gli presenta che cos'è la gastronomia italiana? Siamo su un altro pianeta. Beh, sai, il problema è questo, che negli Stati Uniti per 50 anni, 100 anni sono stati abituati a mangiare una cucina che non era italiana, era un qualcosa di completamente diverso, di sentito dire, o purtroppo di emigranti che erano arrivati negli Stati Uniti e che in Italia non avevano mai fatto i cuochi e conoscevano poco di cucina. Oggi è arrivato il momento dei professionisti, cioè bisogna far sì che la cucina italiana, quella trasmessa, sia vera. Poi che venga accettato o meno, secondo me questo è meno importante, però bisogna trasferire il vero e non il fasullo o il copiato. Quindi è giusto che arrivano dei cuochi come lui, perché lui interpreta il territorio in maniera moderna, però non tradisce il passato, perché ci sono alcuni suoi piatti che fanno parte della storia del territorio, quindi sicuramente ad esempio lui usa la mortadella, cioè i tortellini, il parmigiano, le usa con un fare moderno, ma secondo me la cucina non può rimanere ferma, la cucina è sempre contaminazione e sviluppo, quindi è giusto che siano presentati anche in altra maniera. L'importante è che i sapori e i profumi rimangano quelli. Quello è fondamentale. Noi dobbiamo trasmettere i sapori e i profumi che sono quelli tipici del territorio, ma io direi di più. Noi non dobbiamo trasmettere la cucina, dobbiamo trasmettere i territori. Questo secondo me è fondamentale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, visto che abbiamo ancora Massimo Bottura e Davide Paolini con noi ai microfoni, ma chiedo a Massimo: cosa ti è rimasto di quell'esperienza americana? Una canzone che ti è piaciuta, che vogliamo far ascoltare? Io penso all'America, penso a quello di cui abbiamo parlato, questi territori visto da 10 km di distanza, la memoria, Bob Dylan, Johnny Cash, The Girl from the North Country. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!